voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Fiat Voluntas Dei. Ah, a proposito di Fiat, un signore sulla 500 viaggiava a 350 km. Cambia musica, eh? E che non c'ho pezzetto, pezzetto a tutto. Armando, vai col canto. Betovoli, canto quinto, inverno 7, senza portiere. Quando lasciai il mio distretto squadrato in mezzo alla campagna dell'Illinois per andare a frequentare l'università dove si era laureato mio padre, fra i vivaci rilievi del Berkshire, nel Massachusetts occidentale, sviluppai un'improvvisa fissazione per la matematica. Comincio adesso a capirne il motivo. Per uno del Midwest, la matematica del college produce una evocazione catartica della nostalgia di casa. Io ero cresciuto in mezzo a vettori, rette che intersecano rette, griglie e, all'altezza dell'orizzonte, le ampie linee curve delle forze della natura. Il bizzarro assetto topografico a spirale di un immenso lotto di terra stirata dalle glaciazioni che si poggia e ruota su placche geologiche. Questo era l'incipit di Tennis, Trigonometria e Tornado di David Foster Wallace. È arrivato anche il momento del nuovo album per quanto riguarda gli Anonimo FTP, a cui da qualche anno stiamo dedicando una doverosa attenzione. Un album nuovo questo, Lo sguardo al cielo, esattamente come il brano che ci siamo ascoltati, in cui c'è più pop che nei precedenti. Non mi devo spiegare più di tanto perché vi siete appena ascoltati appunto il pezzo in questione. Qualche biglietto di concerti dei prossimi giorni a cui potreste andare ad assistere gratuitamente grazie ad Eclettica: Giardini di Miro il 16 al Rainbow di Milano, il 17 alla Flog di Firenze, My Brightest Diamond invece alla Casa 139 il 19 e allo Spazio 211 il 20, ovviamente sempre di febbraio. Le due città sono rispettivamente Milano e Torino. Per vincerli scrivete a giulio@radiorockfm.com. ed ora ritorniamo anche sui Vintage Violence, altra band italiana, in questo caso con Quanto fa male pugnalarsi in gola. La vittoria riportata in questa bella giornata, prima della chiacchierata vi faccio una piscetta. E anche per quanto riguarda questa settimana di Eclettica siamo quasi arrivati alla fine. Vedo qua dal display alla mia sinistra che dovremmo avere ancora 6 minuti a disposizione. Gli ultimi li abbiamo passati assieme ai giapponesi Ghost con Caledonia. I prossimi 3 e poco più li passiamo assieme a Matthew Herbert. Non pensate che sia uscito un nuovo disco, in effetti dopo il suo disco Scale per la K7 non è che ne è uscito uno nuovo, ma la stessa K7 ha deciso di ristampare il primo disco di Matthew Herbert, che risale al 1996, che era originariamente concepito come una trilogia house di EP da titolo Part 1, Part 2 e Part 3, e poi era stato assemblato costituendo quello che è diventato il suo album di debutto. La cosa che è incredibile è come dopo 10 anni e qualche mese questo suoni ancora incredibilmente attuale. A voi il giudizio con il primo pezzo in assoluto di Matthew Herbert. Questa è Rude. Alla fine di questa quarta parte dell'intera 19ª settimana, quindi alla conclusione di quest'ultima settimana della decina, ma sì, ma perché sto facendo sto discorso del cavolo, Giulio? Insomma, saluta, ricorda che si sono ascoltati Funkstorung con il remix del brano Love in a Trash Can dei Ravionettes, vedi di chiudere tutto, di andartene perché sei stanco, stai sparando cazzate e forse è meglio riprendere settimana prossima quando sarai più fresco. Tutto questo sempre su Eclettica, sempre su Rock FM.